Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. In base all'articolo 1 del codice di acchiappa citrulli, acchiappate questo citrullo e portatelo in prigione. 5 anni. Oh, oh, ma io sono quello che gli hanno rubato! Oh! Mastro Ciliegia, Geppetto, Mangiafuoco, ma anche il gatto e la volpe, Lucignolo e poi la fatina e il grillo parlante. È raro che i personaggi di un libro siano tutti così universalmente famosi e Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi, è anche in questo senso un caso letterario. Scritto nel 1880 da Carlo Lorenzini, vero nome di Collodi, nella prima versione si chiudeva con la morte di Pinocchio per impiccagione. Quindi non proprio un libro per ragazzi, almeno per quei tempi. Eppure... Pinocchio! Chi sei? Cosa vuoi? Sono un grillo e abito in questa casa da più di 100 anni. Adesso vattene! È casa mia! E io ci faccio quello che mi pare! Povero grullarello, ma non sai che facendo così diventerai un grandissimo somaro? Eppure l'accoglienza popolare fu entusiasta e Collodi aggiunse un lieto fine edificante alla storia del burattino. Una successiva rivalutazione del filosofo Benedetto Croce sdoganò completamente il libro, inserendolo di diritto nella letteratura italiana. Fatina mia, guarda il mio naso, sembra un bastone, perché se l'ha allungata ancora? Io non ho detto una bugia, ho detto la verità! Va bene, ti dirò la vera verità, ho venduto l'abbecedario per andare allo spettacolo di Mangiafuoco. Carissimo Pinocchio. Da allora più di 240 traduzioni in tutto il mondo, decine tra film, sceneggiati, cartoni animati, ma anche concept album e videogiochi. Un successo di un libro che è profondamente italiano per il giornalista economico Oscar Giannino. Il motivo per cui Pinocchio è davvero altro che Dante Alighieri, il romanzo dell'Italia, è che nei difetti di colui che viene rappresentato come il burattino sta l'eterno difetto dell'italiano che è burattino. Perché... sono esattamente le 10, le 100 vicende raccontate dei paesi dei balocchi, truffe, che nella realtà italiana sono la realtà permanente di un paese che non ha avuto lunga storia per radicare nel pubblico valori e virtù. Con noi fessi, ai quali i gatti e le volpi, di volta in volta, qualunque sia il loro colore politico, ci propongono di mettere i nostri soldini, zecchini, per farli chissà come fruttare, e poi regolarmente ne approfittano. Voi avete presente il giudice, l'iniquità in base a cui pronuncia la sua sentenza dichiaratamente a favore del più forte? Ecco, sono gli eterni difetti dell'Italia. Oh Grillino, meno male che sei arrivato, Grillino! Se avessi ascoltato la mia buona fata, ora sarei già diventato un ragazzo per bene. Ma d'ora in avanti ti prometto... Ah, che vuoi promettere? Troppo tardi, Pinocchio. Non ce l'hai fatta a diventare un ragazzo come tutti gli altri. Succederà? Diventerai un ciuco. Carissimo Pinocchio. Ma le avventure di Pinocchio rimangono pur sempre una fiaba e non saremo noi a farle mancare il rassicurante, materno finale che tutti si aspettano. Bravo Pinocchio. In grazia del tuo buon cuore meriti tanta lode e tanta gioia. Ce l'hai fatta. Oh Fatina, quante cose mi hai insegnato. Non me le scorderò mai, mai, mai. Continua per questa strada e per l'avvenire sarai felice. Ciao, Pinocchio. Ciao, Fatina. Ciao. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.